Hola. Non c'è problema, no, siamo stati bene, niente di particolare. per il resto si lascia tutto alle spalle. Ma io mi sono alzato presto anche stamattina, 6:30, sono andato a prendere Gabriele alle 7. Ci abbiamo fatto l'Urvis e i rimbursi perché lei è reumatici, l'avevamo già fatto ieri. E quindi sono entrato presto, capito? Voglio scendere anche da Luigi, ma a vedere col microfono, non ce l'ho fatta neanche io, già ci picchia, ieri non c'ero. Che palle, sempre lavoro, sempre lavoro. Non hai sentito Gigi? Sì, l'ho sentito stamattina sul 45, stavo provando della radio e poi mi ha detto aspetta, faccio una massa. Allora ho approfittato, ho fatto un attimo di bianco e niente, stavo provando un apparato, voleva regolarsi il sistema dell'equa. E si è regolato il sistema, poi dice aspetta che faccio un ambasso, non so da chi e niente, in quell'attimo io ho chiuso e più tardi poi ho acceso, ho sentito a grotte Antonello che era un po' giù di morale, Antonello, ma va bene dai, tutto qua. Antonello, non so cosa dire qua, veramente. Poi pazienza anche lui, in questo momento ce n'è un bel di gente con morale basso, però un po' di pazienza, lo vediamo. Positivo il capo di Roche, bisogna prendere tutto positivamente, e morale basso, e passa tutto, piano piano, e bisogna avere fiducia nella vita, se no si ha fiducia, buonanotte. Infatti, piano piano vedrai che adesso risolvono i problemi, dobbiamo avere sempre fiducia in se stesso e possibilmente anche negli altri, ma se si affretta non si vuole fare nulla. Si conferma. Ma mi stavano dicendo, ma Mario buonanima è nativo della Argentina, così? Ecco perché oggi mi sono trovato con l'agenzia che fa il servizio funebre e mi ha detto che fanno la messa a Sassari e poi lo portano lì all'Argentina. Sì, sì, lo so, lei conosco i figli tutti, infatti ho mandato un telegramma e poi niente, però andare a vederlo. Non la sono sentita, ma anche con i miei sono così, con i miei parenti, a me andare alla camera mortuaria, l'unico che sono andato a vedere è fatelo io, ma poi basta, gli altri no. Non è una cosa che mi fa male, basta, no. Figurati a Tonella e sono andato a casa a vederlo, no. A casa sono riuscito, ma forse perché eravamo in tanti, ero Michele, ero Andrea, c'era un sacco di animatori, siamo andati tutti assieme, proprio la sera sul tardi. Siamo rimasti lì, siamo andati lì, però era a casa diversamente lì e non ci riesco a entrare, ma cosa che non manda. Positivo. No, ti volevo dire un'altra cosa adesso, eh? Ma ti stavo per dire, va, dimenticato. Ah no, stamattina sono andato prima in camera mortuaria lì a San Pietro, cioè all'ospedale civile, e non c'era, ho detto ma strano. Poi per la parola ho detto, ma non sarà a casa, no? Vado a casa giù e c'è da Gio Maria, giù con la moglie. Ho detto, ma il Mario dov'è? Ma è a casa? Dice, no. Dice, guarda che Mario è al vecchio hotel giù di Sassari. Ho detto, ma al vecchio hotel? Boh, ho detto, vabbè. Siamo salutati, ci siamo salutati e sono andati lì. Ed era lì, infatti, in effetti. Era lì perché c'è il centro di Amedico, è morto lì. Infatti, ma lì cos'è? Una casa di cura hanno fatto lì quello vecchio hotel, o no? Centro di Amedico, centro di Amedico. Lui è stato male, è salita la glicemia a 1000, capito? È stato male, l'hanno ricoverato lì e lì è morto, quindi chiaramente poi da lì parte il funerale. Una volta è morto, non tocchi più, non te lo fanno toccare. Positivo. Via. positiva Capococci, dai. Va bene, che va bene. Ehi, ehi. Anda bene, Mela. E vabbè, io non abbiamo perso. Io l'ho anche scritto, un grande esempio per tutti, ma una persona che io ho conosciuto più da te, ma io avevo 20 anni, 21 anni, da quando lui era in servizio a Roma qui in Sardegna. Conoscevo una vita, però prima o poi ci volevamo aspettare tutti perché non stavano bene, l'ultima volta ci siamo sentiti alla radio, alla retrograda. Chissà volta mi ritengo, e quando uno se la sente vuol dire che sa di non star bene. Vero. Vabbè. È mancato un amico. Capocci, va bene così. Vabbè. La vita va avanti. Non ha sofferto in 2 giorni, Caput. Non aggiungiamo altro. Comunque io mi ero fatto lì, non ci vado. Adesso poi con calma telefonerò al figlio, del ricordo appunto di mandarmi il ricordino con la fotografia, perché ci tengo, come mi ha fatto quella di Torre, quella di Nicosio. Quando ci sono questi eventi così bisogna purtroppo essere preparati. Si conferma purtroppo così. Va bene, che va bene. Programmi stasera nulla? No, programmi stasera, guarda, mi devo prima riposare, dopo prendo il programma Agustina per la ricina che mi ha dato il medico e poi vedo se riesco a salire su a staccare con l'antenna d'Antonio, che c'è un'antenna piccolina che serve per il ricevitore. E basta, stasera a casa sono le stesse tricolore a Olbia. Volevamo andare, ma non me la sento, sono stato morto, sono tutta la settimana macinando, ieri mi ho fatto 580 km. Senta quello che ho fatto di mattina a lavoro, più 200, sono 780 km. E ieri sera quando sono arrivato di rapporto, vita metà, ottimo, metà di un altro cuscino, dormito, vita di sì. Mi sono alzato, sono passato, mi sono lavato, cambiato alle 6:30, sono uscito alle 7:15, sono andato a prendere a Gabriele. Hai voglia, ci vuole un po' di riposo, va bene, ecco lì, mi stanno chiamando. Fatti un buon tutto, dai, Claudio, ci si riascolta più tardi magari. Che problema tu, sono in radio. Sono a casa, sono in radio, ci sentiamo più tardi, Anch'io fra un po' mi alluno, è già pronto il pranzo, e poi mi faccio una bella pennichella, almeno sino alle 5, a recuperare un po' di sonno, e poi siamo qua in radio, non ci stanno problemi. Ok, dai. Buon tutto allora, Claudio, ci si ascolta più dopo. Ciao. Ciao, Antonio, buon pranzo anche a te, più tardi. Ciao.